In questo venerdì 7 settembre i titoli di apertura sono quasi tutti dedicati alla giornata importante. Ieri al board della BCE per salvare l'euro, la mossa di Draghi, acquisti illimitati di bond, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, il piano di Draghi trascina i mercati, Repubblica, svolta BCE, le borse volano. Il giornale Merkel abbassa la cresta, zittita da Draghi. E anche il Manifesto mette la foto di Mario Draghi con il titolo Il giorno del dragone. La Stampa, vince Draghi, volano le borse. Il Messaggero, sì al piano Draghi, volano i mercati. L'Unità, vince Draghi ma non è finita. Insomma, come vedete, tutti i titoli, quasi tutti, sono su questo. Chi apre in modo leggermente diverso, Libero, che continua la sua campagna contro il fisco, o meglio il fisco troppo invasivo. Ecco le vittime del fisco, questo è il titolo d'apertura, mentre il Fatto Quotidiano si concentra ancora sull'interrogatorio di Berlusconi ai PM. Ci sono tutti retroscena dell'interrogatorio e Berlusconi disse in groia: io e lei possiamo salvare l'Italia. Questo è il titolo di apertura di Prima Pagina. Voglio partire però con quelle notizie che il venerdì, io lo so, vi metteranno di buonissimo umore in vista di un proficuo weekend di relax. Allora, ieri la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha detto che bisogna tagliare le spese, a cominciare dal Consiglio regionale del Lazio. Ebbene, oggi ci sono due giornali che si dedicano al Consiglio regionale del Lazio, al suo Presidente, che è anche stato nostro ospite varie volte, magari lo reinviteremo, Mario Abruzzese. Lazio, spese d'oro in Consiglio, il Presidente pagato come Obama. Ogni tanto viene fuori questo raffronto, no? Spesso si dice Durvalder, il presidente della provincia di Bolzano, pagato più di Obama. Ecco, adesso Mauro Evangelisti sul Messaggero, il presidente del Consiglio regionale del Lazio pagato come Obama, l'assemblea regionale costa ogni cittadino 24 euro, gli emiliani ne versano 10. Vabbè, ma questi sono raffronti che spesso escono sui giornali. Ma il presidente abruzzese rilascia un'intervista scoppiettante a Repubblica, Mauro Favale, la trovate in Prima Pagina, il presidente degli sprechi, 18 segretari e 9 consulenti, avete udito bene? 18 segretari e 9 consulenti, mi servono? Certo che mi servono tutti e 18. Se non è un record, poco ci manca. La presidenza del Consiglio regionale del Lazio, retta da Mario Abruzzese, lavorano 18 segretari. Costo annuale degli stipendi 900.000 euro. Al servizio della presidenza ci sono anche 9 consulenti, per non parlare dei 2 vicepresidenti che dispongono di 24 segretarie e 4 collaboratori. E con grande nonchalance Abruzzese, nato a Cassino 54 anni fa, respinge l'ondata anticasta e dice: non siamo noi i più spreconi. Rivendico l'autonomia del Consiglio regionale. Certo, ma 18 segretari, presidente, intanto sono collaboratori. Sì, ma sono tanti. Parliamo del capo di gabinetto, del vice capo di gabinetto, della segreteria tecnica, della segreteria amministrativa. Appunto, tutti indispensabili. Certo, tutti, risponde Abruzzese. E non si limitano a dare assistenza a me, si adoperano per assistere tutto il Lazio. Avete capito? Tutto il Lazio, voi che siete cittadini del Lazio. È necessario avere una struttura per fronteggiare le richieste che arrivano dai sindaci e dal territorio regionale. Sì, ma lei ha pure 9 consulenti, tra l'altro tutti ciociari come lei. I consulenti fanno parte del regolamento di organizzazione che non ho certo approvato io. Questo viene sempre messo a tutti i politici, no? Non l'ho fatto io. E il regolamento si può modificare, presidente, come chiede Mauro Favale. Ne stiamo discutendo. Valuteremo la riduzione dei consulenti. Sì, ma lei è presidente da 2 anni e mezzo. Come dire, cosa avete fatto? Senta, io quando sono arrivato ho trovato una nave ben organizzata, con un bel equipaggio, e non ho aggiunto nessuna vela né un marinaio. Anzi, ho tagliato. Ho tagliato anche i monogruppi. Sapete la mitica storia dei monogruppi, cioè i gruppi consigliari formati da una sola persona, e quindi sono un gruppo consigliare e quindi prendono un surplus per questo, ma adesso sono stati tagliati. Sì, ma ce ne sono ancora 5 che costano 12 milioni di euro, fa sapere il giornalista, ma quelli esistenti non li potevo mica toccare, no? Però pensi, con tutto il casotto politico che c'è oggi, quanti altri ne potevano nascere e invece ora è vietato grazie a me. Io la Spending Review l'ho cominciata più di un anno fa. Ma tra i suoi consulenti ce n'è anche uno che cura per caso la sua immagine. Questo è falso. Peraltro io ho anche dei buoni gusti e non ne ho proprio bisogno. Così parlò Mario Abruzzese, presidente del Consiglio regionale del Lazio, finito anche nel mirino di Renata Polverini, nel senso lui non come figura ma come consiglio regionale, troppo costoso. A proposito di costi, se non ne avete abbastanza, leggete pagina 14 del Fatto Quotidiano dal titolo «Penne d'oro pubbliche da Torino a Roma fino alla Sicilia». Questa è un'altra, come dire, manna per molti o per pochi. Uffici stampa e portavoce con stipendi da decine di migliaia di euro. Fabrizio D'Esposito e Alessandro Ferrucci raccontano, per esempio, eccolo qui, sempre il raffronto con Obama. Guadagna di più il portavoce del presidente degli Stati Uniti o quello del sindaco di Torino? Se siete perfidi, avete indovinato. La busta paga di Jay Carney recita $172,000, al cambio sono tra i 120 e i 130.000 euro. Gianni Giovannetti, invece ex messaggero, ex democratico di sinistra, portavoce di Fassino, gli euro 186.269. Nel capoluogo piemontese molti si interrogano sulla necessità di tanta magnificenza, vista la situazione lacrime e sangue. Ma al PD spiegano, Giovannetti era con Fassina ai tempi del partito, già allora aveva ottenuto uno stipendio alto, ora lo ha solo portato con sé. E poi a 18 km da Torino, scrive il Fatto, ecco Chieri, paesone da 36.000 abitanti, 300 metri sul livello del mare. I conti non tornano, la giunta ha ritenuto necessario spendere 100.000 euro per web e uffici stampa. Poi ci si concentra su Roma. Da marzo il sindaco Alemanno ha nominato come portavoce Esther Mieli, per lei due contratti. Dal marzo 2012 al 31 dicembre ha firmato per 124.000 euro, mentre dal 1 gennaio 2013 al 29 aprile ne prenderà 53.350, un totale di 177.000 euro per 13 mesi. Ma poi c'è anche Simone Turbolente, che è il responsabile ufficio stampa, 120.000 euro, sotto di lui altre 68 persone. E scrive il Fatto Quotidiano tra parentesi, sì, proprio 68, tra interni ed esterni, tutti impegnati a seguire il lavoro del comune e degli assessori. Un metro di paragone lo può offrire il comune di Milano, che ha al suo fianco con Giuliano Pisapia, Giovanni Nani e Marco Dragone, tutti e due con un co-co-co da 100.000 euro a testa. Negli uffici circolano altre 20 persone a disposizione dei 12 assessori. E vabbè, insomma, mentre nella regione Lazio due collaboratori di Renata Polverini, scrive sempre il Fatto, ricevono insieme 311.000 euro l'anno. Ma ci sono anche altri conti. Li potete trovare. Il presidente della regione Scopelliti, per esempio, in Calabria ha ingaggiato un fotoreporter per immortararlo, per farsi fare delle foto, 41.000 euro. Oppure il capo ufficio stampa del sindaco Buzzanca, un altro dei nostri grandi amici, ascoltatori, nostri ospiti, sindaco di Messina. Il capo ufficio stampa è uno dei più pagati. Il suo capo ufficio stampa a Messina prende 136.000 euro l'anno. Evviva! Voi, come al solito, tenetevi il vostro stipendio, andate serenamente a lavorare e beccatevi un po' di pubblicità. Cari ascoltatori, alle 7.35 minuti, molti mi scrivono al 349-238-6666 a dire basta, non darci più queste notizie che ci sembra di aver sbagliato tutto. Ma no, bisogna prenderle con il giusto sorriso sulle labbra e poi essere informati. E poi trarne le conseguenze, se uno vuole, quando va a votare. Ma non arrabbiatevi, su. Non arrabbiatevi, volete fare il capo ufficio stampa del comune di Messina? Io no, non lo farei mai, per esempio, con tutto il rispetto per quel tipo di lavoro. E comunque, che dobbiamo dire? È stato il giorno di Mario Draghi, è stato il giorno di Mario Draghi alla BCE, certamente, perché è passata la linea Draghi, questo è il titolo su tutti i giornali. Il giorno del dragone, titola per esempio il Manifesto. Bene. che cosa è successo? Che la BCE ieri ha lanciato il piano antispread con gli acquisti limitati di titoli di Stato con scadenze da 1 a 3 anni, senza alcun tetto ai rendimenti, ma sottoposti però a una severa condizionalità. Questa è stata la formula utilizzata, come scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, cioè l'assistenza ai paesi che chiederanno il fondo salva stati sarà interrotta se i governi non rispetteranno gli impegni sulle riforme. Il piano, come racconta Alessandro Merli a pagina 3 del Sole, si chiama Outright Monetary Transactions, OMT, imparate questa nuova sigla, è stato ribattezzato così. E prevede proprio questo, è stato approvato dalla BCE, l'unico voto contrario della Bundesbank, vale a dire di Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, la banca centrale tedesca, come era stato anticipato nei giorni scorsi. La BCE non ha fissato in anticipo alcun limite quantitativo di possibile acquisto, il che, scrive Merli, non è proprio lo stesso che dire che le operazioni saranno illimitate, ma dà ai mercati il segnale che l'Istituto di Francoforte è pronto a dare gli interventi dimensioni adeguate al raggiungimento dell'obiettivo, come sottolineato da Draghi. Le operazioni saranno in realtà limitate dall'ammontare dei titoli in circolazione su queste scadenze, sono circa 500 miliardi di euro per l'Italia, 250 miliardi per la Spagna, secondo alcune stime. A giudicare dalle prime reazioni, i mercati sono apparsi convinti che la BCE abbia così creato una barriera credibile contro la rottura dell'unione monetaria. Insomma, si è consumato però uno scontro, vero e proprio, uno scontro in realtà che vedeva da una parte alla fine solo il no di Weidmann, appunto, della Bundesbank tedesca. Tra l'altro è interessante, se volete, a pagina 2, vedere anche le facce, che cos'è la BCE, chi compone il board della BCE, queste persone che in pratica, abbiamo capito, decidono quasi il bello e il cattivo tempo degli stati dell'Eurozona. Ebbene, c'è un rappresentante per ogni nazione, Mario Draghi ovviamente è il presidente della BCE, ci sono rappresentanti dell'Austria, Estonia, Olanda, Finlandia, Lussemburgo, Germania, appunto, e Jens Weidmann, che è l'unico che è stato contrario, insomma Malta, Grecia, Francia, Spagna, un rappresentante con anche tutta la posizione che hanno avuto, e la posizione è in genere l'allineamento sulla posizione di Mario Draghi. Come detto, invece, la Germania no. Che farà ora il capo della Bundesbank? Addirittura potrebbe arrivare a dimettersi, visto che è stata sconfessata la sua linea. Ebbene, ieri, racconta sempre Alessandro Merli, questa volta lo trovate a pagina 2 del Sole, Weidmann e la Bundesbank ha fatto un comunicato stampa che è una mossa irrituale dopo che la BCE ha assunto una decisione unanime a parte il suo voto. Ebbene, invece è uscita una nota di Weidmann che considera ancora gli acquisti di titoli di finanziamento dei governi alla pari con la stampa di moneta e che per questo la politica monetaria rischia di essere sottomessa alla politica fiscale. Inoltre la Bundesbank vede il pericolo di una redistribuzione di rischi tra i contribuenti dei diversi paesi, un'argomentazione ovviamente molto sentita nell'opinione pubblica tedesca, rischio che può essere autorizzato solo dai parlamenti e governi democraticamente eletti. Ora bisognerà capire il 12, che cosa deciderà la Corte Costituzionale tedesca sul fondo salva stati. Ci sono una serie di ricorsi su cui si dovrà pronunciare sulla legittimità di questo fondo salva stati. Certo, è stata una vittoria di Draghi sui mercati subito. Lo spread è sceso a 372, lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi di riferimento, il differenziale dunque è sceso, vince questo effetto Draghi, la Bundesbank rimane in trincea, come titola il Corriere della Sera pagina 6, restiamo contrari, mentre Mario Monti, che su Repubblica fanno sapere non chiederemo aiuti per ora, è quel per ora ovviamente che è la frase, nella frase è l'elemento più importante, un Mario Monti che però viene dato per molto soddisfatto, avrebbe detto, dice Repubblica nel retroscena di Francesco Bei, Mario Draghi non ha sbagliato per ora una mossa e si è detto molto contento della linea portata avanti. Questo per quel che riguarda quello che è successo a Francoforte, dunque la giornata della BCE è passata questa linea Draghi e pare che ci sia una bella pezza nel salvataggio dell'euro. Se veniamo qui in Italia invece, il decretone sulla sanità, devo dire, è nato un po' con sotto non i migliori auspici. Era nato portando la tassa sulle bibite, questa è l'intenzione del ministro Balduzzi, poi la tassa è stata tolta. Però Balduzzi ha detto: ma la cosa importante, cioè aver suscitato il dibattito, è passata, che sembra un po' una magra consolazione. Poi dovevano esserci delle limitazioni ai giochi, al gioco legale d'azzardo, con per esempio i limiti a 500 metri, poi sono stati abbassati a 200 metri il limite di mettere le macchinette videopoker da scuole e ospedali. È saltato anche quello, via i 200 metri di distanza per i videogiochi. In realtà sono rimaste tante cose importanti, peccato che per mettere a regime queste cose, per esempio i medici 24 ore su 24, 7 giorni su 7 disponibili, i medici di base per gli italiani, oppure come cambiare la sanità nel senso delle nomine, nelle nomine a cui devono far fronte le regioni ogni volta, quindi svincolare le nomine dei dirigenti sanitari dalla politica. Peccato che per fare tutto questo, soprattutto la questione dei medici, ci vogliono le risorse. Le risorse ci sono? La risposta unanime di tutti è no. Parte il cammino della riforma, ecco come cambia la sanità per i medici e i cittadini, potete leggere Roberto Turno sul Sole 24 Ore, la definisce una riforma tutta da costruire, altro che assistenza H24 per tutta la settimana, feste comandate comprese sul territorio e non solo più in ospedale, per avere servizi sanitari più rapidi, più vicini, magari per risparmiare troppi esami e visite, ma anche tempo prezioso per i cittadini. Questo che passerà alla storia sanitaria come il decretone Balduzzi. Per fare questo serviranno finanziamenti, una nuova convenzione, lo dice anche il ministro, che ammette è una scelta indispensabile ma è solo il primo passo. Ed dunque, in un quadro sfilacciato del mondo antico della sanità italiana, che si sono ieri rincorse le prime riflessioni sul decreto di Renato Balduzzi. I politici dicono: ma ci sono i soldi, anche lo stesso Bersani, dove si trovano i soldi per riorganizzare la medicina di base? Siamo sicuri che non ci siano stati fatti dei proclami a vuoto? Ne discuteremo in Parlamento. Ovviamente tutti ora fanno anche le stime, per qualcuno sul Messaggero, lo trovate a pagina 8, secondo una stima, prima stima, ci vorrebbero 15 miliardi di euro per riorganizzare gli ambulatori 24 ore su 24. E dove li troviamo 15 miliardi di euro? Cioè, è un decretone che prevede 15 miliardi di euro? Bah, sul decreto l'affondo delle regioni, questo è il titolo di pagina 9, sentiremo anche per esempio una delle regioni rappresentate con Luca Zaia alle 8:20, l'affondo delle regioni che dicono non ci sono i soldi, ma dove li reperiamo? Anche le regioni sono anche arrabbiate per il tentativo che viene fatto nel decreto, e secondo le regioni è fatto in maniera sbagliata, secondo molte regioni, di svincolare le nomine di direttori di ASL dalla politica, perché il decreto prevede che gli aspiranti direttori di ASL debbano avere una laurea magistrale, 5 anni di esperienza nel settore, 7 in alcuni altri, massimo 65 anni al momento della nomina. I candidati devono iscriversi a un albo regionale, sperare di essere presi in considerazione da una commissione di esperti indicata da qualificate istituzioni indipendenti. Questo recitano i documenti ministeriali. Questo sarebbe il tentativo, racconta anche il Fatto Quotidiano a pagina 4, di svincolare appunto le nomine troppo legate oggi alla politica. Ma per molti non sono norme che davvero aiutano in tal senso, non aiutano molto, insomma. Diciamo che bisognava fare di più. L'altro tema anche che fa discutere è quello dell'uso del contante. Si vuole rendere obbligatorio per i negozianti dal luglio del 2013 di accettare solo il bancomat per spese oltre i 50 euro. Anche qui è nato subito un dibattito sui giornali, da qui ripartiamo dopo il traffico. Allora, come detto, nel decreto decretone salute c'è anche questa idea. No, non del decretone salute, nell'agenda di governo c'è questa idea. L'idea di mettere l'obbligo, l'ipotesi, siamo nel campo delle ipotesi, dal 1 luglio 2013 l'obbligo di accettare i pagamenti con moneta elettronica, dunque bancomat, carte prepagate, per gli importi superiori ai 50 euro. Ma anche qui, cari ascoltatori, io si dice, resta solo un'idea. Se sentite cosa ha detto il sottosegretario Claudio De Vincenti dopo questa ipotesi lanciata, stiamo lavorando su questa ipotesi, ma non c'è nulla di definito né sulla soglia dei 50 euro né sui tempi. Si ragiona su ipotesi, si correggono, si cambiano, si abbandonano, stiamo lavorando. Ecco, non lo so, quindi a questo punto forse non è neanche, è anche inutile discuterne. Siamo nel campo delle ipotesi, però ad esempio il giornale ci fa per esempio una pagina. C'è chi dice il pagamento elettronico è un diritto del consumatore, c'è chi come Ida Magli risponde invece no, così ogni nostro gesto verrà spiato dallo Stato. Insomma, il vecchio, antico, annoso dibattito: deve essere fatta la carta elettronica, così è un diritto del consumatore, così tutto viene tracciato, così non ci può essere nessun tipo di evasione fiscale, almeno per i pagamenti. Oppure chi dice ma così si controlla tutto, mi venite a scoprire se io vado ad acquistare 70 euro nel tal posto e quindi mi venite a tracciare anche i miei consumi, stili di vita abituali. Vabbè, comunque la pensiate dalla politica, invece arrivano alcune notizie. Forse quella che farà più discutere è questa intervista che ha mandato in onda ieri Piazza Pulita, un'intervista che mi sembrava un pochino rubata, non si è capito bene. Io non l'ho vista, ma dall'audio mi sembra un'intervista un po' così. Il consigliere del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, Favia, Giovanni Favia, è stato anche nostro ospite, e dice quello che il Corriere della Sera, il giornale riprendono: tra i 5 Stelle decide tutto Casaleggio. Sapete che si è parlato di questo guru che, della Casaleggio Associati, che starebbe sopra Beppe Grillo, che comunque detterebbe molto le linee di come comunicare, eccetera. Ebbene, sentite cosa ha detto lui Giovanni Favia, uno del movimento: è spietato, vendicativo, controlla dall'alto il movimento, usa anche degli infiltrati. Prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Grillo, io lo conosco, è un istintivo, non sarebbe mai stato in grado di pianificare una cosa del genere. Mentre invece Casaleggio è la vera mente del movimento, o si leva dai coglioni oppure il movimento gli esploderà in mano. Insomma, considerazioni molto molto dure. Anche il giornale fa una pagina: confessione shock del grillino, è Casaleggio il leader. Invece Berlusconi è andato dai PM, o meglio i PM di Palermo sono andati da Berlusconi a Roma a interrogarlo sul caso della presunta estorsione di Dell'Utri. Oggi trovate tutto spiattellato in retroscena di questo interrogatorio sul Fatto Quotidiano. Caimano Show, questo è il titolo. Allora, il meglio del meglio che ha detto Berlusconi a Ingroia per il Fatto Quotidiano, ricostruito da Davide Vecchi, trovate a pagina 6. E ha esordito subito così: peccato che lei sia interista e non milanista, Berlusconi a Ingroia. Ma voi interisti vi pentirete di averci portato via Cassano, quello mette in subbuglio lo spogliatoio. Poi a Ingroia: leggo sui giornali che lei si appresterebbe a scendere in campo, le assicuro che noi professionisti prestati alla politica siamo gli unici che possono salvare questo paese. E ancora, dopo che ha saputo che Ingroia andrà in Guatemala: ma lo sa che in Guatemala sto investendo un sacco di soldi in un progetto umanitario, ha detto Berlusconi a Ingroia, stiamo costruendo un nuovo ospedale, appena torna dall'Africa ci mando Bertolaso. E la solita barzelletta, alla quale racconta il Fatto i PM non hanno riso per nulla. E poi invece anche la battuta: voi non avete idea di quanto mi costano gli avvocati. E poi invece le questioni dell'interrogatorio vero e proprio, tra cui la questione dell'assunzione di Vittorio Mangano, fattore nella Villa d'Arcore. Berlusconi dice: cercavamo uno stalliere per badare ai cavalli, in Lombardia non ne trovavamo nessuno e allora Dell'Utri lo fece venire da Palermo, aveva ottime referenze di artigiano agricolo, Marcello garantì per lui, come facevo a non fidarmi? E niente, poi trovate altri dettagli dell'interrogatorio. Mentre invece, per quel che riguarda sempre la politica, si muove la Lega. La Lega, oggi lo trovate in prima pagina della Padania, propone 2 referendum. Anche il Corriere della Sera lo riporta a pagina 11. Maroni lancia il referendum per un eurozona senza sud, prendendo spunto da quello che fece il Financial Times di recente. Un referendum nel quale si sono già depositate le firme per la consultazione in concomitanza con le politiche 2013, L'idea è quello, chiediamo che l'Europa si trasformi nell'Europa delle regioni e dei popoli, questo significa che non ci saranno più gli stati. La Lega non è contro l'Europa, siamo euroscettici, eurocritici, perché l'eurozona, così come definita, non funziona più. L'idea è quella di fare un'eurozona diversa. Un quesito referendario propone e chiederà ai cittadini se sono d'accordo a modificare il perimetro dell'eurozona ed escludere le regioni e non gli stati che non soddisfano i requisiti. Ovviamente si pensa in Italia i requisiti economico e finanziari, vale a dire le regioni del sud rispetto alle regioni del nord. Infatti il Financial Times aveva messo questa eurozona che arrivava fino a Roma e poi escludeva le regioni del sud. C'è un minuto ancora? Chiedo all'alpino Peter Beschepès. Sì, trovate. Noi ce ne eravamo occupati. Ricordate la vicenda dei biglietti, delle partite che finiscono ai politici? E poi ha spesso consiglieri comunali. Ebbene, il Quotidiano Nazionale ha trovato due biglietti che erano assegnati al Comune di Milano, ai consiglieri, e sono finiti ai bagarini, quelli che fanno quel lavoro illegale di vendita di biglietti fuori dagli stadi. E il Quotidiano Nazionale ha detto: come mai? Di chi sono? Di chi questi biglietti? A chi erano affidati? A un consigliere comunale di Milano? Allora pare sia stato scovato, si tratta di Armando Vagliati, eccolo qui, i biglietti omaggio finiti ai bagarini erano di un consigliere, Armando Vagliati, che cade dalle nuvole e sentite che giustificazione dà. Da quando sono consigliere comunale a Milano sono andato allo stadio due volte, ho sempre affidato la distribuzione dei biglietti gratuiti a mia madre, che ha 90 anni, ma è ancora molto attiva nel quartiere dove abita. È lei che regala i biglietti per le partite di Inter e Milan a persone che reputa bisognose. Non so come siano finite in mano ai bagarini. Quindi il politico si difende così. Non so che fine facciano i biglietti omaggio regalati da mia madre. Prende biglietti, li dà alla madre di 90 anni, che li dà a persone bisognose, ecco, e sono finite in mano ai bagarini. Vai a sapere il perché. È tempo di giornale radio, rientriamo alle 8:20.